Wolf Trips, i viaggi del lupo. Bene, bene, ci siamo. Questa è la prima puntata di Wolf Trips con me, che sono Domenico Biancardi. È un nuovo programma di Radio Lupo Solitario e si parlerà di musica underground. Si va dalla drum and bass, dubstep, elettronica, insomma dei viaggi nella musica underground. Questa sera partiamo con gli Apollo 440 e tutto quello che gravita attorno. Erano gli Apollo 440 con il brano Are We a Rock Band or What?, dove si domandano se sono una rock band o sono altro. E continuiamo il nostro viaggio con Fatboy Slim con Long Way From Home. Seems to wanna sit with me. was a walk, it was a long way from home. The moon froze the night. Questo era Fatboy Slim con un pezzo pop quasi roccheggiante e con il suo ritmo solito big beat. Adesso continuiamo con un classico degli Apollo 440, nel quale dicono stop the rock, ma non si capisce se indicano veramente che vogliono fermarsi col rock o andare avanti. Ok, dopo Stop the Rock passiamo ad altri big della musica elettronica. Loro sono i Chemical Brothers con Harpoons. torniamo a parlare degli Apollo 440 con Crazy Horse, un brano dalle atmosfere elettroniche ma con un ritmo di batteria e un riff aggressivo. Si potrebbe quasi definire country rock. Gabriele Baccelliere, auto d'epoca e di interesse storico. GB Auto, auto nuove di tutte le migliori case e modelli. GB Auto, auto usate e semestrali multimarche, garantite dalla nostra esperienza del settore. Visita il nostro nuovo concessionario online su www.gbautoweb.com o contattaci telefonicamente al 335-68-41-387. GB Auto è il nuovo modo di acquistare un'auto direttamente dalla poltrona di casa tua. Parola di Gabriele Baccelliere. And touch barbed wire. Le Follie Acconciature, creatore di moda e tendenza uomo-donna, presenta frangette piastrate, tagli asimmetrici, extension. Le Follie Acconciature è a Busto Arsizio in Viale Virgilio 2. Telefonaci allo 0331 670997. Guarda tutte le promozioni su lefollieacconciature.com. Le Follie Acconciature, ve li facciamo di tutti i colori. Yamamai, intimo e moda mare, prodotti realizzati per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia ed in particolare per la donna attenta alle tendenze della moda. Yamamai, con una rete di oltre 500 punti vendita monomarca che coprono l'intero territorio nazionale. Scopri quello più vicino a te su www.yamamai.com. Sabato 18 marzo sarà 90 Party Rock. Presso la discoteca La Rocca di Arona, Giorgio Fioretti e Michi Squillante vi faranno ballare tutte le hit della mitica Radio Lupo Solitario. Non mancare quindi il 18 marzo alla Rocca di Arona. I'm on my way. Erano i Crystal Method con Realizer. E passiamo, torniamo invece agli Apollo 440. Il prossimo pezzo è Cold Rock the Mic, che è un brano molto energico, roccheggiante, tendenzialmente ricorda i vecchi tempi anni 70 e 80. Cold Mic Rock. Questi erano gli Apollo 440 con Cold Rock the Mic, non come ho detto prima. E passiamo al prossimo invece, che è dei Prodigy, non potevano mancare in questa playlist. Questo è Words on Fire.

Eccoci tornati in diretta, questa era Fatboy Slim con Weapon of Choice e il nostro viaggio continua ancora con gli Apollo 440, questa è 440 Day. sono le 9:10 e sulle note di Apollo 440 con 440 Days continuiamo il nostro viaggio. Questo è Fatboy Slim dal 1999 con un brano storico del DJ con Right Here, Right Now. Era Fatboy Slim con Right Here, Right Now. Torniamo con uno degli ultimi brani per gli Apollo 440 con Earth Go Boom. Questo è un brano con influenze Britpop e alternative rap e una buonissima base elettronica che lo trasforma in un super pezzo. Make my heart go boom, boom. boing, giliba, giliba, giliba, boing, giliba, giliba, giliba, boing, giliba, giliba. Take my heart, boom, boom. Take my heart, boom, boom. Take my heart, boom, boom. Take my heart, boom, boom. Siamo quasi alla fine della nostra prima puntata. Questi erano gli Apollo 440 con Earth Go Boom. E per concludere la serata ascoltiamo adesso Stadium Park Lot, un pezzo veramente particolare, sempre degli Apollo 440. There's a party going on. I can hear it going on. Wolf Trips, I viaggi del lupo. E siamo arrivati all'ultimo pezzo per la prima puntata di Wolf Trips. Io sono Domenico Biancardi, sono le 9. Lasciamo lo spazio al programma dopo, che è Wolfman Jack, giusto? Ok, che sennò mi ammazzavano. E ci sentiamo settimana prossima con Wolf Trips. Vuoi la musica di Radio Lupo Solitario sempre con te? Vuoi interagire con le nostre dirette? Scarica l'app, è gratuita e disponibile per dispositivi iOS ed Android. Radio Lupo Solitario, keep your rock alive.